gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy, benvenuti a tutti su Radio Miami International, il contenitore in lingua italiana condotto da Andrea Mangiarotti, 15 minuti nella lingua italiana sulle onde corte. In apertura, oltre al mio saluto, vi ricordo anche dove siamo in onda sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41 di Double RMI, Radio Miami International. Su quella frequenza ci potete ascoltare in molte nazioni e anche in molti continenti a seconda della propagazione. 7780 kHz sarebbero la frequenza destinata all'Europa, però abbiamo anche ricevuto dei rapporti di ricezione dalla Cina, dalla Corea del Sud, dall'India e così via. Quindi questa frequenza vi offre la possibilità di sentire questa trasmissione I Love Italy, 7780 kHz, pari a metri e 41. Se volete interagire con la trasmissione per richiedere cartoline QSL, per farci dei rapporti di ricezione o semplicemente per salutarci, potete visitare il mio sito che sentite in apertura, www.andreamangiarotti.com. Lì trovate tutte le varie coordinate per scriverci in formato digitale. Quindi trovate la mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per la vostra corrispondenza multimediale. Poi abbiamo anche voiceofitaly.it, il sito insomma della trasmissione, dove potete leggere in breve che cosa vi permette di sentire questa trasmissione. Se invece siete ancora degli amanti di carta e calamaio, come dico spesso, potete scrivere anche a Radio Miami International, Dabor RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, per i vostri rapporti di ricezione in formato cartaceo, se volete, o anche semplicemente per mandarci un saluto scusate, via etere. Io sono Andrea Mangiarotti, quindi parliamo di Sanremo, perché da pochi giorni da poche settimane si è conclusa questa bella kermesse canora, appunto Sanremo 2022, che ha visto ancora l'alla conduzione il nostro bravo Amadeus. Questa volta la sua spalla ufficiale Fiorello è stata presente solo una serata, giustamente per non stancare forse il pubblico si è pensato di far intervenire Fiorello solo sporadicamente in una serata, la prima serata d'apertura. Negli anni 60 e 70, quando la RAI trasmetteva ancora in onde corte e nelle onde medie, trasmetteva per l'appunto il Sanremo in diretta e i nostri cari emigranti sentivano attraverso le onde corte questa bella manifestazione insieme ai loro idoli del periodo, Nilla Pizzi, anche lo stesso Domenico Modugno, Claudio Villa sognavano attraverso le note delle loro canzoni, delle loro esibizioni, e così ricordavano un po' la loro terra lontana, se magari erano immigrati negli Stati Uniti oppure se erano immigrati nel Latino America. Quest'oggi 2022 di quel Sanremo, di quelle voci, di quelle emozioni rimane ben poco. Rimangono sicuramente i figli di italiani immigrati di seconda e di terza generazione, che sicuramente avranno perso anche la lingua italiana, avranno perso la lingua italiana e quindi a tutti gli effetti magari sono cittadini statunitensi o cittadini dell'America Latina e così via. In Europa poi c'era anche il festival trasmesso dalla RAI sulle frequenze invece in onde medie, quindi raggiungevano la Germania, magari il Belgio, paesi dove i nostri immigrati lavoravano principalmente o nelle officine, nelle fabbriche, ma in Belgio ci sono stati anche moltissimi italiani che lavoravano nelle miniere, hanno contribuito non poco alla crescita di questi paesi, tipo il Belgio, la Danimarca, la Germania e anche la vicina Svizzera. Anche lì c'era una forte immigrazione italiana e gli italiani sognavano attraverso la radio, ascoltando Sanremo, come vi ho detto, attraverso l'uso delle onde corte, delle onde medie. Poi c'era anche il Notturno Italiano, sempre della RAI, che proponeva una colonna sonora musicale italiana per far sognare i nostri immigrati. Quest'oggi tutto questo sembra essere superato dalle varie moderne tecnologie, Spotify, uno si riascolta le canzoni, oppure le dirette streaming dal sito della RAI e così via. Però noi siamo qua con immenso piacere sulle onde corte per farvi sognare e per ricordare, insomma, il grande Guglielmo Marconi, che grazie a lui, insomma, ci furono i primi test proprio in onde corte. Poi la radio in onde corte ha contribuito molto anche nel periodo disastroso della Seconda Guerra Mondiale, con Radio Londra, tutte queste radio pirata che informavano per l'appunto i cittadini e le truppe alleate. Va bene. Questo per dire che siamo nel 2022, quindi parliamo di Sanremo del 2022. Ha visto una ricca scuderia di cantanti molto variegata. Quest'anno Sanremo, Amadeus ha voluto pescare un po' dal passato con nomi nuovi, nomi già conosciuti, miti della canzone italiana, tipo Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Loredana Bertè, la stessa Donatella Rettore e quindi Massimo Ranieri. Ha pescato un po' qua, un po' là, cercando di accontentare un po' tutti. Ovviamente poi il televoto finale, essendo per la maggior parte giovani che votano, il successo, si sa, va sempre comunque a una band giovanile. Forse questo è un po' un ostacolo per la selezione delle belle canzoni. Detto questo, ci sono stati anche dei premi importanti, il premio appunto della Stampa, che è andato a Massimo Ranieri. C'è stato anche il premio Lucio Dalla, che adesso non ricordo chi è che se l'è aggiudicato, comunque poco importa. Tra i big in gara, ovviamente Massimo Ranieri, come abbiamo detto, Gianni Morandi si è classificato al terzo posto e in una conferenza stampa che si è susseguita dopo il festival, Gianni Morandi ha dichiarato: le celebrazioni ti fanno pensare a quel momento là, a forza di essere eterno ragazzo, come dice Fiorello, poi a eterno riposo è un attimo. Comunque essere ancora qua mi fa piacere, la voglia di fare musica con gli anni che passano non va mai via, anzi quella rimane. Così Gianni Morandi, che quest'anno è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo da proprio artista in gara, classificandosi al terzo posto. Un terzo posto meritato, una canzone direi un pochino in chiave retro anni 60, scritta da Jovanotti. Al secondo posto si è classificata Elisa, molto molto brava questa interprete, ha una notevole voce che sicuramente le consente di essere ancora in auge, e al primo posto non è una sorpresa perché già li davano vincitori da parecchio tempo, la coppia consolidata Mahmood e Blanco, che presentano una canzone che è intitolata Brividi. Erano già stati dati per favoriti, però comunque è stata una sorpresa. Morandi alla terza piazza e Elisa alla seconda. C'erano altri bei brani comunque in scaletta, Sanremo, tipo quello, il brano del rappresentante di lista, molto molto un po' del sapore anni 70, con questo bel basso che comunque non è salito sul podio, forse un pochino anche arretrato. Poi c'era anche Dagen D'Amico con questo brano un pochino dance, portato forse al teatro Ariston, cercando di rimarcare il successo dei Maneskin, proponendo un brano non tanto sanremese. Comunque è stato un bel festival condotto da Amadeus, sempre molto impeccabile, bravo tipo presentatore vecchio stile, Mike Buongiorno, Pippo Baudo, ben vestito, impeccabile, qualche papera l'ha presa anche lui, ma nessuno è perfetto. E come appunto, come spalle, quest'anno ha scelto delle donne, quindi come valletta, passatemi questo termine che magari potrà non piacere alle donne all'ascolto, però come valletta ha selezionato delle donne, delle belle donne, ovviamente Sabrina Ferilli, che è storia del cinema italiano e anche della TV. Poi c'è anche questa Drusilla Foen, che io non conoscevo, poi ho saputo che era un uomo travestito che si travestiva da donna e faceva spettacolo, è stato molto bravo, è stato apprezzato dal pubblico anche lui insieme alle canzoni. E se dovessi personalmente esprimere un parere sui brani ascoltati, sì, direi che il livello musicale è buono, ci siamo come livello musicale, ci sono degli ottimi artisti che abbiamo apprezzato, che sicuramente apprezzeremo anche nelle radio, non solo come si chiama in queste serate sanremesi, ma vedrete, ci porteremo dietro queste canzoni, questi tormentoni per tutta la stagione primaverile estiva. Bravo anche Irama con la sua canzone Ovunque Sarai, molto particolare e un pochino bizzarro il suo duetto con Gianluca Grignani in questo medley di canzoni di Grignani, che purtroppo è un po' un periodo un po' buio per lui. Facciamo tanti auguri, però è stata bella la loro esibizione in mezzo al pubblico, hanno scaldato le folle. Achille Alauro è il solito re cantante, così un po' alla David Bowie, che deve per forza scandalizzare. Poi abbiamo una bella voce di Emma, brava anche lei, San Giovanni bravo, una sorpresa anche Giusy Ferreri, che comunque rimane sempre ancorata a queste sonorità molto estive. Anna Mena c'entrava ben poco con Sanremo, era più un tormentone, un reggaeton estivo, comunque c'era anche lei, è giusto anche lei. Fabrizio Moro, H7, Noemi, Dito della Piaga con La Rettore, bravissima anche loro, bella voce, bella coreografia. Eva Zanicchi, Human, bella voce, ottima canzone. Tananai, Matteo Romano, poi c'è anche appunto Ricomi e altri interpreti che adesso qua mi sfugge, vado a ruota libera. Comunque anche la nostra brava Elisa ha meritato di vincere, Michele Bravi e così via. Così è stato un festival un po' strano, non c'è stata tanta volgarità, qualche parolaccia, ma poco di più. Bene, cari ascoltatori delle Onde Corte, Andrea ha terminato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente su un Double RMI 7780 kHz, pari a metri 41. Ringrazio Jeff White per lo spazio, per l'ospitalità, e I Love Italy torna prossimamente. Ora lasciamo spazio alla redazione di Occhi Ciobi con altre trasmissioni nelle vostre lingue preferite. Ciao da Andrea Mangiarotti, bye bye, ciao, un abbraccio da Andy, ciao. www.andreamangiarotti.com